Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 23 settembre il sole in regione è sorto alle 6.55 e tramonterà alle 19.04. Martedì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. Sono gli ultimi giorni di vendemmia in Friuli Venezia Giulia, come previsto si chiude con numeri da record. Ma Assoenologi avverte attenti a non esagerare con le quantità. Il prezzo dell'uva infatti è già bello sceso verso il basso. Pittura friulana nel corsivo di Enos Costantini, poi parleremo di pomodori trasformati protagonisti della rubrica sulle normative che precede quella della zootecnia sull'allevamento bovino. Andremo poi alla scoperta dei ciclamini di Parco Rizzani a Pagnacco e della storia della distillazione della grappa dalla casa all'industria. Mercati, previsioni meteo per la settimana e proverbio friulano chiuderanno la puntata. In Friuli Venezia Giulia, a ridosso di Ferragosto, si sono staccati i primi grappoli, iniziata la vendemmia con prospettive, è stato detto subito davvero ottime sia per lo stato delle uve che anche per le attese di produzione in crescita. Allora chiediamo a Rodolfo Rizzi, che è presidente di Assoenologi del Friuli Venezia Giulia, come sta andando realmente questa vendemmia, innanzitutto adesso, fine settembre, a che punto siamo? Ormai le grosso delle uve sono state raccolte. Oggi ci accingiamo a raccogliere ancora i Cabernet Franc, i Cabernet Sauvignon, alcuni refoschi, ma soprattutto il Verduzzo e nella zona di Ramandolo, il Verduzzo per poi creare il Ramandolo e il Picolite. Quindi ormai le uve tardive stanno per entrare in cantina. Aumento di produzione c'è stato effettivamente, di quale entità? C'è stato un forte aumento di produzione. Dobbiamo tener conto che l'annata 2017, quindi lo scorso anno, la vendemmia è stata molto carente in Friuli Venezia Giulia. Quest'anno, dai primi dati raccolti, siamo attorno a un aumento del 25% in più della produzione, ma soprattutto riusciremo a battere un record dei 2 milioni di ettolitri di vino poi prodotti, che porta la nostra regione a un record a livello nazionale, tenendo conto che l'Italia quest'anno ritorna ad essere il primo produttore al mondo con 56 milioni di ettolitri previsti nella vendemmia 2018. Parliamo di Prosecco di Glera. Quanto sono aumentati i terreni coltivati a Glera? Oggi in Friuli Venezia Giulia raggiunge circa i 3.800 ettari. È una produzione importante soprattutto per la quantità che questo vitigno dà alla produzione degli agricoltori. Cosa succede? Che la nostra regione, da sempre una regione vocata alla viticoltura, oggi con questa tipologia di produzione, e ricordiamo che il vitigno Glera assieme al pino grigio, altro vitigno molto importante per noi, supera abbondantemente il 50% della produzione totale. Quindi non dobbiamo rischiare di cadere in una viticoltura solo esclusivamente commerciale, che andrebbe ad annientare quella tradizione enologica che è proprio classica sia delle nostre colline ma soprattutto anche di alcune zone della pianura friulana. Difficile che il Prosecco esca di moda, però è una cosa da considerare. Oggi il Prosecco è un brand a livello internazionale. È difficile pensare che a breve termine questo si cancelli, però è facile pensare che all'interno di questo fenomeno Prosecco ci siano dei non agricoltori che stanno facendo dei processi di speculazione, soprattutto nella coltivazione dei terreni. Rodolfo Rizzi, c'è stato anche un problema di calo del valore dell'uva raccolta. Data la grande quantità di uva offerta sul mercato, tra domanda e offerta c'è stato un netto calo, una flessione dei prezzi d'acquisto di alcune varietà, soprattutto anche nelle varietà di Prosecco. Questo ha comportato un po' di malumore tra i produttori, perché dobbiamo tener conto che produrre oggi un chilo d'uva è molto costoso, e molto costoso è anche la parte di trasformazione poi in cantina e soprattutto il discorso della commercializzazione. Lei dice è un'annata questa da ricordare per tanti motivi, perché? un'annata da ricordare perché il meteo ci ha dato una grande mano. Queste grandi produzioni, queste alte produzioni nella vigna, se fossero state supportate da un meteo instabile, quindi con un meteo autunnale come solitamente avviene nella nostra regione, ci sarebbero stati dei grossi problemi. Quindi sarà da pensare, soprattutto per i prossimi anni, durante sia le potature secche invernali, ma soprattutto durante le pratiche agronomiche estive, da bilanciare la produzione delle varietà, quelle che sono fortemente produttive, di copiare tutto sommato quello che stanno facendo oggi i frutticoltori nella nostra regione. Il Friuli rurale, raccontato dallo sguardo e dal pennello di Otto D'Angelo nel corsivo di Enos Costantini. Otto, un piccolo grande uomo dagli occhi chiari, vispi e allegri, mi diceva sempre: io non sono un pittore, sono un illustratore. E con ciò voglio mettere a tacere quelli che, con la puzza sotto il naso, non lo consideravano un pittore. Non era un'avanguardia, non era un Picasso Furlan per nostra fortuna e forse per sua sfortuna. Era un testimone col dono del pennello. Io ho una grande memoria visiva, ripeteva con vanto. E alla sua memoria visiva dobbiamo quella descrizione del Friuli che nessun etnografo avrebbe mai potuto fare, perché gli etnografi normalmente non hanno il dono del pennello. E se usano il disegno o la fotografia, ma la natura in tal senso non li ha molto dotati, immortalano singoli attrezzi, non quadri di vita. Nei dipinti di Otto c'è il movimento, l'ambientazione, l'atmosfera, la gente, le bestie, il letame, i liquami, le zucche, le rape, il sorgo, la segala, il pane, la polenta. C'è la vita. Egli nacque in una famiglia di mezzadri, quando la voce del padrone era legge, quando non si moriva di fame, ma si pativa la fame. E ha saputo tradurre in verità pittorica quei tempi che tanti hanno inopinatamente, superficialmente, malamente sublimato in poesia, stantia e nostalgia della vecchia fattoria. Le donne di Otto sono belle e formose da giovani, ma diventano immediatamente sfigurate dalla fatica. Il temporale aggredisce il carro del fieno, annullando lavoro e unità foraggere. Lo stagno malsano domina i centri dei paesi. Le poche feste, quantunque religiose, riportano un povero, quasi squallido paganesimo. La merenda dello scolaro era una rapa col sale, considerata peraltro una squisitezza. L'arte di Otto D'Angelo raggiunge un alto lirismo coi cavalli, magistralmente dipinti, e ha accenti profondamente teneri col contadino che alla sera, dopo cena, porta delle dolci pannocchiette alle sue dorate vacche, e queste ricambiano con sguardi affettuosi. Otto ci lascia un patrimonio figurativo che, è nostra opinione, ben poche regioni possono vantare. Otto illustra una società non antica, ma moderna, perché quella imperniata sulla pezzata rossa e sulle latterie ha avuto origine solo alla fine dell'Ottocento e si è liquefatta dopo la miope rivoluzione agraria degli anni 60 e 70. E quelle migliaia di immagini lasciano un grande insegnamento ai friulani che hanno acriticamente voltato pagina e che frequentano i centri commerciali nelle più belle giornate di sole ingolfandosi di junk food. Il stomi un escovacere. L'insegnamento è questo. Nulla viene regalato e tutto si paga, direttamente o indirettamente. Nella società contadina di Otto c'era poca istruzione, ma tutti sapevano fare i conti. Ora c'è molta istruzione, ma ben pochi sanno fare i conti. Il sorriso di Otto e i suoi occhi chiari e vispi si sono spenti nel mese di settembre del 2018. Adesso è lassù coi suoi pennelli. Ma il ritratto di San Pietro è riuscito frettoloso, perché il nostro artista ha preferito dare sfogo a un'altra sua vocazione, allenando la squadra di ballon dei Cherubini, in vista del derby coi Serafini. ci sono importanti novità per le etichette dei derivati del pomodoro. Ce ne parla Marco Maligion, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia sicuramente non è terra dove si coltiva pomodoro d'industria, ma il tema è comunque di grande interesse anche per i consumatori della nostra regione, se si considera che oggi in Italia si consumano mediamente ogni anno oltre 30 kg pro capite tra passate, conserve, concentrati, pelati, pomodori a pezzetti e polpe, tutta roba confezionata. Per questo è importante ricordare che è finalmente in vigore il decreto interministeriale che impone di riportare in etichetta l'origine della materia prima anche su tutti i prodotti composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro. Si tratta di una misura di trasparenza molto attesa perché anche se l'Italia è il principale produttore dell'UE, nei primi 5 mesi del 2018 sono arrivati dall'estero il 15% di derivati di pomodoro in più rispetto allo scorso anno e parliamo di oltre 85.000 tonnellate di conserve provenienti da Stati Uniti, Spagna e Cina. Cosa leggere d'ora in poi quindi sulle confezioni al supermercato? Allora, le confezioni di tutti i derivati del pomodoro, sughi, salse comprese, prodotte in Italia, dovranno avere d'ora in poi obbligatoriamente indicate in etichetta il paese di coltivazione del pomodoro e il paese di trasformazione. Se queste fasi avvengono nel territorio di più paesi, dovranno essere utilizzate, a seconda della provenienza, le diciture paesi UE o paesi non UE. Per i prodotti ottenuti con pomodori coltivati in Italia potranno riportare la dicitura origine del prodotto Italia. E per le scorte già in magazzino? Naturalmente, visto che si tratta di alimenti che hanno una discreta conservabilità, per consentire lo smaltimento delle scorte, i prodotti che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto, purché immessi in mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore del provvedimento, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione previsto in etichetta. Negli ultimi anni sono stati numerosi provvedimenti riguardanti l'etichettatura di origine. Pensiamo ai derivati del latte o del grano nella pasta. L'elenco è completo? Assolutamente no, perché ci sono ancora numerosi alimenti che richiederebbero una migliore caratterizzazione in etichetta. Pensiamo agli altri derivati dei vegetali, congelati, surgelati, sott'olio, sottoaceti, succhi di frutta, confettura, frutta sciroppata, eccetera. Poi alcune carni fresche come quelle del coniglio, ma anche tutte le carni trasformate, salumi e insaccati che non hanno una DOP o un IGP. E poi ci sarebbe da ragionare anche sullo zucchero grezzo e raffinato. Nella prima puntata dedicata ai bovini con Sandro Menegon si è parlato di istituzioni, leggi e quant'altro che determinarono il cammino sulla via del progresso, così l'ha definita Sandro. Oggi ci addentriamo sulle caratteristiche dei bovini allevati nell'Ottocento e sulla loro consistenza numerica. Dalla relazione sulla statistica pastorale del 1868 e da altre forme direi che possiamo descrivere una situazione esaustiva del momento. Sempre in considerazione della grande eterogeneità della nostra regione, sotto gli aspetti pedoclimatici dobbiamo distinguere la zona alpina e prealpina dalla pianura. In effetti è bene ricordare che in montagna la natura del suolo, le pendenze e l'esposizione limitavano la messa a coltura di terreni, mentre le estese superfici a prato e pascolo trovavano nell'allevamento la più razionale utilizzazione, non è così? Non solo, l'allevamento di bovine con discrete produzioni di latte, latte e latticini, base alimentare della popolazione e mezzo di scambio con i cereali della pianura. Esponenti di spicco della situazione agraria friulana ritenevano che i bovini allevati fossero di mediocre grandezza, di buona struttura e se nutriti di un accettevole prodotto. Vacche latifere e di piccola statura, avvegnacché, se troppo pesanti, durano fatica ad ascendere i monti. Gli stessi autori però lamentavano una scarsa selezione massale, la poca cura riservata ai vitelli di allevamento, il limitato numero di tori e il loro eccessivo sfruttamento, considerando anche il breve periodo dei salti, essendo i parti stagionali, e le cattive condizioni delle stalle. E per quanto riguarda i numeri? Confrontando la statistica pastorale del 1868 e il censimento del 1908, nella zona in esame il patrimonio bovino era aumentato. Le vacche erano passate da 38.155 capi a 52.816, mentre quasi invariato il numero dei tori e dei buoi, quest'ultimi poco rispetto alla pandura, perché, come più volte ricordato e che non vorremmo dimenticare, i trasporti in agricoltura e non solo erano legati al binomio donna-gerla e ad onore del vero e per rispetto, più che di agricoltori allevatori, in montagna sarebbe il caso di parlare di agricoltrici allevatrici. Nel parco Orizzani di Pagnaco, sotto gli alberi secolari, è possibile ammirare grandi distese di ciclamini selvatici ora nel momento della massima fioritura. Per vari motivi il parco merita di essere scoperto e frequentato, non è così, Franca Merluzzi? Sì. Il parco è pubblico e si trova a nord-ovest dell'abitato di Pagnaco, un po' fuori mano e forse per questo è poco conosciuto. Entrati, l'attenzione va subito alle distese colorate di rosa, con sfumature più chiare e più scure, ai piedi del secolare cedro del Libano dai rami a candelabro. E percorrendo il vialetto di sinistra si scopre che qui c'è un'eccezionale fioritura di ciclamini selvatici. Sbucano dal suolo tra gli aghi delle conifere e l'edera verde scuro. Nel parco i ciclamini si sono naturalizzati ottimamente e si propagano anche in angoli lontani e ogni anno rifioriscono dalla fine di agosto a ottobre. Nel prato centrale si erge una magnolia cobus dalla forma cupola, i vialetti sono ombreggiati da tigli, querce, faggi, abeti dalle altezze notevoli e troviamo anche qualche cespuglio di bosso e di tasso. Appartato, ombroso e romantico è il belvedere in alto, con la vecchia sofora dal tronco contorto. Il parco era parte della villa costruita per la villeggiatura estiva della famiglia udinese dei Rizzani, assieme agli annessi rustici e a una cinquantina di ettari per uso agricolo. Il complesso è stato suddiviso. L'estensione agricola è utilizzata ora dall'università per le sperimentazioni sull'allevamento e difatti, oltre alla recinzione, capita di vedere mucche e cavalli, mentre il parco è gestito dalla regione. Una squadra assicura la manutenzione costante, gli sfalci e la cura degli alberi. È veramente ordinato e curato in ogni particolare ed è dotato di attrezzature in legno costruite appositamente. In questo periodo un angolo è precluso ai visitatori, ma attenzione, nessun albero secolare verrà abbattuto. Sul declivio si coltivano, come un tempo, alcuni alberi da frutto. E per il visitatore la tentazione è forte di cogliere almeno una di quelle melette gialle profumate ormai mature. Dalla casa alla farmacia allo stabilimento Gabriele Cagliazza ci racconta la distillazione della grappa con un ricordo anche di padre Turoldo. Quando la grappa era sufficientemente sincera, cioè distillata in casa con tal perizia da limitare i livelli di sostanza nociva, e soprattutto il suo consumo ridotto al minimo, poteva anche accadere che aiutasse davvero i bambini, benché in modo più che altro simbolico. Davide Maria Turoldo ricordava che nella casa in cui era nato la grappa non mancava mai, tanto che il padre gliene aveva concesso l'assaggio fin dalla più tenera età, suscitando le proteste della moglie. E mia madre a dirgli, non dargli la grappa, Zuan, che non cresce. L'interpretazione materna rivela un'altra convinzione popolare. Il consumo di alcolici in tenera età può disturbare la crescita anziché favorirla. Il frate poeta, inoltre, aggiungeva, mio padre sorrideva, poi fatomi bere un piccolo sorso e il resto della tazza se lo versava nelle dure mani e sulle braccia, per profumarsi, e se ne andava nei campi a faticare. Ciò avveniva ogni giorno, sin dal mattino, come ogni rito, in cui la grappa era l'acqua di fuoco che ti bruciava anche la fame e ti dava coraggio per affrontare ogni fatica. Sicché, dopo anni, finito di crescere, egli ancora chiedeva alla madre «Se papà non mi dava la grappa, dove sarei finito?» Al di là del ricordo del servita, e contrariamente alla più diffusa credenza popolare, le acquiviti casalinghe erano ricche di sostanze non poco nocive per la salute umana, essendo distillate in maniera alquanto semplicistica e priva delle necessarie accortezze. Per esempio, in gravidanza, anche senza che ci fosse un vero e proprio abuso da parte della gestante, potevano causare al feto danni di non poco conto, sia a livello fisico che cerebrale, sicché le donne carniche si videro esplicitamente vietare dalla legislazione asburgica il consumo di grappa, acqueviti di frutta o altri distillati. Fu anche per tali motivi che dalla fine del Settecento, qui in Friuli come altrove, pian piano si diffusero le distillerie, da prima opifici e più avanti impianti industriali, specificamente deputati alla distillazione di alcolici da bere. La più antica, per il momento nota, in regione, peraltro ancora attiva, iniziò a trasformare le vinacce in petès nel 1797, appena 18 anni dopo la distilleria Nardini di Bassano, considerata da molti il più antico grappificio d'Italia. Precisamente cominciò nella tenuta agricola di Farra di Sonzo, che gli Strasoldo avevano avviato poco meno di 3 secoli prima, acquistando dei mansi destinati alla viticoltura dal capitolo di Aquileia. Il passaggio dal 700 all'800 costituì uno snodo fondamentale per la distillazione, giacché proprio allora l'arte di lambicà passò da artigianato a industria. E, siccome si sviluppò dal punto di diventare un settore sempre più importante sotto il profilo economico, a un certo punto, fatalmente, vi si intromisero le autorità. Però, se i governanti giunsero a tassarne la fabbricazione e a vietarne la produzione in proprio, quest'ultima non smise comunque di essere praticata, anche se di nascosto, clandestinamente. Ed ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento stabile venerdì scorso le contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,60 e 16,80 euro il quintale IVA esclusa. Il frumento terreno buono mercantile tra 18,70 e 19 euro, l'orzo tra 18,90 e 19,40. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è rimasto invariato, mentre quello del frumento è aumentato di 2,70 euro al quintale. Scambi positivi con discreti affari al mercato ortofrutticolo di Udine, dove in Salata Gentile e la Lattuga Trocadero vengono pagate tra 1,30 e 1,50 euro al chilo IVA esclusa, la cicoria tra 1,40 e 1,60, la scarola riccia tra 2,80 e 3,20, le zucchine tra 0,60 e 0,80, quelle in fiore tra 1,40 e 1,80, i pomodori italiani in grappolo tra 2 e 2,20, i finocchi tra 1 e 1,40, i peperoni gialli e rossi italiani tra 2 e 2,20, le patate tra 50 e 75 centesimi, l'uva tra 1,30 e 1,80. Il latte naturale di vacca Franco Stalla, compresa refrigerazione, è quotato dalla Camera di Commercio di Udine a 0,3650 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, scambi attivi sui mercati avicunicoli, con i polli a terra pagati tra 1,08 e 1,10 euro il chilo IVA esclusa, i tacchini maschi tra 1,35 e 1,37, le faraone tra 2,25 e 2,29, le anatre tra 2,15 e 2,19, i conigli oltre 2 kg e mezzo quotati dal CUM di Verona tra 1,99 e 2,05, le uova da 63 a 73 grammi a 13 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. Settembre finora si è presentato con temperature molto elevate, più simili a quelle di un mese di piena estate, e anche generalmente con poca pioggia, a parte situazioni molto localizzate come quella di ieri mattina sulla bassa pianura friulana, dove in 4 ore fra la Tisana e Palazzolo dello Stella sono caduti oltre 60 mm, mentre su gran parte del territorio non è piovuto molto. L'autunno è iniziato e nella prossima notte arriverà sulla regione la prima irruzione di aria fredda proveniente dalla Groenlandia. Dopo alcuni brevi rovesci temporaleschi nelle prime ore di domani mattina, più probabili su bassa pianura e costa, il cielo ritornerà a essere in prevalenza sereno per gran parte della prossima settimana, ma assisteremo, con l'arrivo di correnti settentrionali, a un brusco calo delle temperature. Lunedì mattina saranno possibili delle raffiche anche forti di vento, con componente nord-nord-ovest in quota, nord-nord-est invece su pianura e costa. Le temperature scenderanno, soprattutto in serata. Martedì difficilmente si supereranno i 20 gradi di massima su pianura e costa, mentre sui monti si osserveranno probabilmente le prime gelate anche nei fondovalle più interni, oltre che in quota, con lo zero termico a 1600 metri circa. Questa prima irruzione di freddo è destinata a durare poco e già mercoledì, durante il giorno, torneranno correnti più miti, sempre asciutte e settentrionali. Nella seconda parte della settimana sembrano permanere, con il robusto anticiclone, condizioni di tempo stabile e soleggiato, e le temperature probabilmente risaliranno decisamente, tornando anche al di sopra dei valori medi del periodo, con massime su pianura e costa attese per giovedì attorno ai 25-26 gradi. È quanto mai opportuno comunque seguire costantemente gli aggiornamenti delle previsioni, visti i repentini cambiamenti delle masse d'aria osservati in questi ultimi giorni e quelli previsti anche nella prossima settimana. Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana: San Mattie lauites in vie, ovvero che per San Mattia, il 21 settembre, per la Pispola è ora di migrare. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it e potete trovarci sulla pagina Facebook Vita nei Campi e riascoltarci sulla pagina web www.rainews.it/tgr/FVG. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?